l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa, il nostro appuntamento settimanale per raccontarvi punti di vista diversi del nostro continente. Lo facciamo seguendo l'attualità, seguendo le curiosità, seguendo anche insomma nuove storie, nuovi personaggi che andiamo a cercare. Potete intervenire come sempre in diretta via email l'altraeuropa@radio24.it oppure attraverso le nostre pagine in Facebook che aggiorniamo in diretta, facebook.com/l'altra Europa. Si parte da Barcellona. Questa è Barcellona. Allora, se avete intenzione di fare i mimi viventi o se volete andare a Barcellona per fare i buskers, attenzione, tempi duri, perché sono troppi e quindi l'amministrazione comunale ha deciso di mettere un freno, di mettere un numero chiuso. Ci sarà una sorta di concorso per poter fare la statua vivente sulle Ramblas, quindi insomma notizia che ha fatto il giro del mondo. Volevamo capire come è stata presa lì sul posto e quindi abbiamo convocato un giornalista della pagina culturale del giornale Pubblico. Diamo il benvenuto a Tony Polo. Ciao Tony. Buongiorno a te. Va? Noi molto bene, tu? Anch'io bene. Hai mai fatto la statua vivente? No, non l'ho mai fatta, comunque adesso non sarei accettato io in questo concorso proprio. Ma quindi è una sorta proprio di concorso pubblico per dimostrare cosa? Quello che devono dimostrare è la loro esperienza, non tanto il talento come l'esperienza teatrale, la loro formazione, quindi avranno più punti quelli che hanno lavorato di più. Capito? Quindi molte di queste statue viventi, di questi mini viventi, si lamentano del fatto che magari portano lì molto tempo, però non hanno la stessa formazione di altri che sono appena arrivati o addirittura di altri che sarebbero interessati a fare le statue viventi. Certo. Quindi non sono molto d'accordo a tutti questi. Adesso non oso immaginare come può essere la lamentazione o la protesta di una statua vivente, però sicuramente troveranno anche loro delle forme per farsi sentire, sì. Ma è veramente così complicato, così affollata la piazza? Guarda, sì, cioè non è una piazza, è la Rambla, cioè è molto lunga, va dalla Plaza Catalogna fino al mare, diciamo, e veramente sì, è molto affollata, è una strada per dove passano, cioè c'è gente in continuo movimento, va bene, a qualsiasi ora del giorno, e queste statue sì, secondo me sì, che forse sono troppe, sì, cioè. Comunque è un attrattivo della Rambla. È diventato appunto un attrattivo perché ce ne sono che dice vabbè, questo lo posso fare anch'io, d'accordo, però ce ne sono tantissime che veramente ce lo fanno benissimo. Che ne so, ce ne sono di tutto, c'è addirittura uno che sembra che sia in sospensione nell'aria, io l'ho guardato, non riesco a trovare il trucco, la magia addirittura. Poi c'è il ciclista che già infatti è stato intervistato, anche qui come si fa a intervistare un mimo non lo sappiamo, però sulla stampa c'è l'intervista al ciclista macabro che sembra che sia storicamente macabro, una presenza lì sulle Ramblas. Sì, poi c'è, vabbè, adesso non mi vengono proprio in mente, ma ce ne sono di tutto. Uno che c'ha, viene lui come seduto senza testa, la testa è sotto cioè su un tavolo. Ricordiamo che insomma sulle Ramblas passano tipo 70 milioni di turisti all'anno, sì. Quindi comunque un euro qua, un euro là, c'è anche un giro di soldi interessante. No, vivono di questo, vivono di questo. È affollatissima la Ramblas. Qui la gente di Barcellona, parli di 70 milioni, sì, mi sembra che anch'io ho sentito questa cifra, tra barcellonesi anche, perché poi è una strada che si usa molto, voglio dire, ci si passa. Io lavoro nella sezione di cultura di Pubblico, lì ci sono teatri, c'è il Liceo, c'è il Poliorama, c'è addirittura il Palau della Virreina, che è dove c'è l'Istituto di Cultura del Comunale, ci lavora tanta gente anche, quindi è troppo affollata, questo è vero. Leggevo, allora i posti saranno 30 a questo primo concorso, se non erro, si sono presentati in un'ottantina di persone. 81 sollecitanti, sì. E quelli che non saranno poi finalmente scelti restano come se restassero in panchina, no? In una partita di calcio, quindi se c'è qualcuno che durante l'anno, questo sarà, ti daranno un tesserino. Come riserva. Ci saranno poi riserva, non so come se la prenderanno, comunque bisogna vedere. Questo sarà questa primavera, nel mese di aprile mi sembra che sia. Ho capito. Tony, grazie davvero. Un'ultima domanda, tu scrivi di cultura, hai scritto anche di questo sul tuo giornale? Sì, ho scritto, però vogliamo fare un reportage per appunto per quando comincia tutta questa quando si mette in pratica, sai? Ok. Lo stiamo preparando. Per il momento abbiamo informato semplicemente, però vogliamo fare una cosa più approfondita perché veramente vale la pena, è curioso. Tony, falla una giornata, il giornalista deve entrare nella parte, secondo me dovresti falla una giornata da statua vivente e raccontare quello che si prova. Mi piacerebbe, io ci proverò. Dai, okay. Forse mi cacciano via i Motus da squadra, questo è anche vero che qua certe volte esagerano. Grazie davvero Tony, grazie per aver accettato il nostro invito, sicuramente ci ritroveremo qui sulle frequenze dell'Altra Europa di Radio 24. Buon sabato. Grazie, ciao. Ciao. Un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'Altra Europa. Euro post-it. Guarda in faccia al futuro a Barcellona. Vi piacerebbe conoscere l'arte britannica in terra straniera? Allora visitate a Barcellona la mostra Let Us Face the Future, l'arte britannica 1945-1968. Let Us Face the Future era lo slogan del partito laburista nella campagna elettorale del 1945, che gli fece vincere le elezioni, portando al rilancio del paese. La Fondazione Miró, in un progetto comune con il British Council, propone un'esposizione per ripercorrere la storia europea dal dopoguerra alla fine degli anni 60 attraverso le opere di alcuni celebri artisti inglesi. Avrete tempo fino al 20 febbraio per conoscere meglio e più a fondo le opere di artisti come Henry Moore, Francis Bacon, David Hockney e Richard Hamilton. Trovate tutto su fundacionmiro-bcn.org. L'altra Europa. L'Europa raccontata da altri punti di vista, questa è l'altra Europa. Tutti i link, tutti i video, tutti gli argomenti che trattiamo potete trovare i riferimenti sul nostro sito facebook.com/l'altra Europa. E potete trovare oggi anche un cartone animato, una serie TV nata, una web TV nel senso che circola in rete, nata proprio per raccontare l'Europa. L'Europa può essere appunto narrata anche attraverso la storia di sei studenti e di questo strano ostello. In the living room of the EU hostel, Alex is explaining to his friends how the EU budget works and what benefits can bring to them as European citizens. Taxpayers' money is used by the European Union with the aim of improving the everyday lives. Ma vedere una serie in animazione alla radio non è facile, però quello che state ascoltando, appunto un episodio ancora inedito delle 10 puntate di questa serie in animazione intitolata EU Hostel, che è stata realizzata da una web media company bolognese, si chiama Contenuti Associati, un progetto europeo appunto per descrivere quella che è l'Europa, però con una forma moderne, che sia intrigante soprattutto per il pubblico più giovane. Con noi c'è il coordinatore dell'iniziativa, diamo il benvenuto a Piero Ingrosso. Ciao Piero. Ciao Federico, un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Grazie a te. Allora, raccontaci un po', facci vedere questa serie animata, cosa vi siete inventati? Sì, come dicevi tu, è difficile far vedere una web series in motion graphic attraverso la radio. E quello che avete mandato in onda è l'estratto proprio dell'ultima puntata inedita, e che sarà pronta proprio subito dopo la trasmissione che sta andando in onda in questo momento, è disponibile online. L'idea e il bisogno era quello di comunicare, di raggiungere le fasce di pubblico più giovane che usa la rete per socializzare, informarsi, comunicare, e per mettere in rete un prodotto di comunicazione pubblica, di digital storytelling, lo chiamiamo noi, che raccontasse un po' che cos'è il Parlamento europeo e quali sono le sue principali attività. Piero, un'ultima domanda, voi insomma raccontate un po' la cultura europea e non solo, però è facile rendere accattivante questa Unione Europea? Guarda, no, non è facile perché i temi sono complessi, spesso distanti da quelle che è la quotidianità, soprattutto di un pubblico molto giovane. Quello che stiamo riscontrando noi realizzando e distribuendo questa serie è un buon successo di soprattutto nel termini di attenzione da parte delle generazioni più giovani, perché la leva sta nel linguaggio da utilizzare, in questo caso quello dell'infografica, della motion graphic, con delle illustrazioni come quelle realizzate da Paola Rollo e animate come quelle animate da Daniele Rollo, per rendere, diciamo, più vicino a quella che è l'esperienza comunicativa dei ragazzi attraverso il web, anche un'istituzione lontana come il Parlamento Europeo. Quindi la serie potete vederla sul web gratuitamente, abbiamo già messo il link nella nostra pagina in Facebook. Vuoi darci anche tu qualche dritta su come scovarvi, sì, guarda, in rete? Il sito è www.uhostel, è scritto euhostel con la h.tv. Da lì si possono guardare in streaming tutti gli episodi, che sono rilasciati con licenza Creative Commons, quindi possono essere utilizzati. Già diverse scuole italiane e europee lo stanno facendo per fini didattici e divulgativi, diventano anche degli ottimi strumenti per i docenti che devono spiegare cose complesse come l'approvazione del budget europeo, il processo di codecisione, oppure anche esempi di storia europea, di come si è arrivati all'unificazione dei paesi del continente. Perfetto, grazie davvero, complimenti e buon sabato Piero a te e a tutto il tuo staff. Grazie, ciao Federico. Ciao. Europost-it. I giovani scienziati crescono in Europa. Ecco un concorso per chi ha il pallino della scienza, pensato per premiare le idee dei giovani studenti. Si chiama European Union Contest for Young. È promosso da Commissione, Consiglio e Parlamento europei ed è la vetrina delle migliori scoperte scientifiche fatte da ragazzi e ragazze tra i 14 e i 21 anni. Si possono vincere fino a 7.000 euro, oppure soggiorni studio o inviti per iniziative europee. Per partecipare, i ragazzi devono superare le selezioni nazionali. La selezione italiana avverrà dal 10 al 12 aprile al Centro Congressi della Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche di Milano. Affrettatevi però, il modulo di partecipazione va spedito entro il 18 febbraio. Tutte le informazioni su fast.me.it. L'altra Europa. Shame, shame, shame on you! Shame, shame, shame on you! Et les filles, pour le gouvernement! Da 8 mesi in Belgio manca un governo. Quelle che state ascoltando sono alcune delle proteste, anche creative, dei giovani che, organizzandosi in Facebook, sono scesi in piazza per chiedere ai politici di trovare un accordo. Ma non sono le uniche proteste nate in questi 8 mesi. Per capire quello che sta succedendo in Belgio abbiamo invitato un giornalista. Diamo il benvenuto a Pierre Marlet. Ciao Pierre! Ciao! Hai fatto sciopero del sesso o sciopero della barba? Allora sì, due proposte che hanno fatto in Belgio. Un deputato femminile, una socialista, ha proposito alle spose degli uomini politici di fare lo stesso che hanno fatto in Kenya, sì. Uno sciopero del sesso. Cioè, per i signori politici non ci sarà più sesso fino alla formazione di un governo. Sembra che in Kenya fu un successo, ma qui credo che posso tranquillizzare gli uomini politici belghi, perché credo che sarà una minaccia campata in aria. Ah, sì, fallimento. Non oso immaginare in Italia una proposta simile, ma va bene. No, dicevi, scusami. Sì, no, dicevo che era per scherzare, ma forse qui in Italia possono farlo, non so se lo fanno. Ma allora c'è un'altra proposta di un attore che è molto conosciuto in Belgio, un attore che si chiama Benoît Poelvoorde, che è conosciuto anche in Francia, che per esempio ha interpretato il ruolo di Cesare in il film di Asterix, sì. E Poelvoorde che ha domandato agli uomini di lasciare la barba senza più tagliarla fino a che formano un governo, ma nelle strade delle città belga non ho incontrato tanti barbuti, allora credo anche che è per scherzare. Doppio fallimento, però ho visto il sito internet di questa manifestazione, di questa protesta, insomma, beerforbelgium.be, che è divertente, insomma, perché hanno voluto fare un po' di rumore. Anche questo è un link che abbiamo già pubblicato in Facebook. E però, Pierre, raccontaci, insomma, non questi 8 mesi, perché insomma sono stati 8 mesi intensi di continui cambi di alleanze, di coalizioni possibili. Insomma, anche il re ha dato l'incarico ormai a chiunque per tentare di trovare un accordo. Attualmente la situazione qual è e cosa accadrà? Perché bisognerà arrivare a un punto di svolta prima o poi. Sì, ma sa che in Italia la vita politica non è tanto facile anche, ma in Belgio è ancora più complicato. E si dice sempre che in Belgio ci sono sempre più due tipi di belghi, i belghi e i fiamminghi. Mm-hmm. E si dice questo perché è un po' per paragonare a Italia, è un po' come il partito come se il partito di Umberto Bossi fu il partito più importante d'Italia, perché i nazionalisti fiamminghi hanno vinto alle elezioni nel nord del paese, in Flandres, ma nel sud, in Valonia, in Bruxelles, il partito più importante è il Partito Socialista francofona, e devono discutere insieme e fare insieme in governo. Allora, sappiamo che in Belgio possiamo fare un poco di tutto, ma qui sembra realmente impossibile. Perché è impossibile? Perché i francofoni vogliono limitare i trasferimenti di competenze alle regioni, e i nazionalisti fiamminghi vogliono realmente vuotare un po' lo Stato belgo delle competenze. Allora, realmente adesso ci sono tanti politici che hanno provato di fare qualcosa, ma l'accordo sembra realmente impossibile. E non solo a pensarlo che vanno a organizzare, andiamo a organizzare, perdona, nuove elezioni, certo, in primavera. Adesso, se non erro, adesso è il turno dei liberali che stanno provando, i liberali francofoni, vero, di trovare una coalizione, hanno un paio di settimane di tempo, questo è stato l'accordo con re. Però tu prevedi le elezioni, anche se si ha paura delle elezioni, perché i nazionalisti potrebbero veramente aumentare anche i loro consensi, e quindi si andrebbe più verso una divisione che verso un accordo. Questo è possibile, perché elezioni non sarà una soluzione, ma i liberali adesso devono fare un rapporto questa settimana, ma se non è un successo, non vedo che possiamo fare. Allora credo che realmente andiamo a pensare fare qualcosa. In Le Soir, che è un giornale molto conosciuto in Belgio questa settimana, sono già a pensare che domenica vanno a organizzare le elezioni in maggio, in aprile. Siamo già realmente a pensarlo, ma come lo dici, non ci sarà realmente una soluzione con le elezioni. Andiamo a fare altre negoziazioni. Mm-hmm. Va bene, insomma, forse che finalmente il Belgio va a dividirsi, oppure che come siamo la patria del surrealismo, andiamo a fare qualcosa che ancora non può esiste e che va a funzionare. Potrebbe anche essere. E Piero, oggi ti sei fatto la barba? Io no, okay, l'ho tagliato oggi mattina. Perfetto. L'altra domanda non te la faccio, per ovvi motivi personali. Grazie mille. Ciao, buon sabato. Ciao. Ciao. Un Europostit, la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. Etruschi in Europa. Una mostra moderna per un popolo antico. È quella dedicata agli Etruschi e realizzata al Museo del Cinquecentenario a Bruxelles. I visitatori vengono accompagnati attraverso un percorso multimediale con video e immagini in 3D attraverso la storia di questa civiltà che ha popolato l'Italia fino al II secolo a.C. I video raccontano la vita quotidiana nelle case, i costumi, il culto per il mondo dell'oltretomba, lo sviluppo dell'arte dell'oro, della ceramica e del bronzo. La mostra è aperta fino al 24 aprile 2011. Per saperne di più, fbk.eu. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è l'Altra Europa, un programma in collaborazione con Euronet, network europeo di radio che tentano di raccontare il nostro continente con tante voci, tanti approcci diversi. Ogni settimana anche un argomento comune che andiamo così ad affrontare e dalle varie nazionalità. Questa settimana si prende spunto dalla 61esima Berlinare, dal Festival di Berlino 2011, è un appuntamento importante per il mondo dell'arte, della cultura, del cinema ovviamente in particolare. La domanda è: questa mostra cosa ci dimostra? C'è ancora vita, c'è ancora bellezza dietro il mondo della crisi? Qual è lo stato attuale? È possibile fotografare uno stato attuale del cinema europeo? E soprattutto, esiste un cinema europeo? Per parlare di tutto questo abbiamo invitato una persona che di cinema europeo se ne intende, il caporedattore del sito cineeuropa.org, un portale in più lingue che mette proprio il focus su quella che è tutta la produzione cinematografica europea e non solo. Diamole benvenuto a Camillo De Marco. Ciao Camillo. Buongiorno Federico. L'ultimo film che hai visto e che ci puoi consigliare così al volo, giusto per sfruttare la tua... Ma ho visto Pranzo di Ferragosto, che dovrebbe essere uscito proprio venerdì scorso. Gianni e le donne, che è famoso per tutti, lo conoscono per Pranzo di Ferragosto, che è stato un gioiellino della produzione italiana. No, quando hai detto Pranzo di Ferragosto pensavo tu fossi registrato, invece no, è stato un lapsus perfetto. Ed è questo film è a Berlino, non ci sono italiani in concorso, probabilmente ci rifaremo al Festival di Cannes, dove ci saranno sicuramente Nanni Moretti, ci sarà il film di Molaioli sul crack Parmalat, ma non c'è nessun film italiano a Berlino. C'è in una sezione parallela appunto questo nuovo film di Gianni Di Gregorio, molto carino, e anche Antonio Albanese con Qualunque Mente. Certo. Noi siamo a Berlino con ben 5 inviati, quindi che significa che nonostante la supremazia culturale americana che c'è sempre, infatti l'apertura è stato un film americano, l'ultimo dei fratelli Coen, il cinema europeo comunque si difende benissimo, anzi sembra aver resistito alla crisi di questi anni più di quello statunitense. Camillo, prima di parlare di questo cinema europeo, raccontaci proprio in due parole che cos'è cineeuropa.org, che cos'è appunto, qual è l'identità di questo progetto? Come hai detto tu, è un portale in 4 lingue, sono esattamente l'inglese, il francese, l'italiano e lo spagnolo, sul cinema europeo. Siamo finanziati al 50% dal programma Media della Commissione europea, siamo un network di giornalisti indipendenti, le redazioni sono basate a Bruxelles e a Roma. Facciamo delle critiche, scriviamo sul cinema europeo in maniera del tutto indipendente, naturalmente con suoi difetti e i suoi pregi. Quindi insomma a Berlino, se andiamo a guardare il programma, ci sono 16 titoli in concorso, ce ne sono ben 6 europei e 5 coproduzioni. Ci sono delle cose anche innovative, film in 3D, per esempio c'è il lungometraggio d'animazione francese di Michel Ocelot, I racconti della notte. Chi porta i bambini a cinema ricorderà il bellissimo Kirikou e la strega Karabar, certo, del 98, era un bel film basato su una fiaba africana. E per esempio anche Wim Wenders ha fatto un film che porta a Berlino in 3D sulla grande coreografa Pina Bausch, che è scomparsa di recente. E ricordo che Wenders l'anno scorso in Italia ha presentato un cortometraggio girato in 3D in Calabria con dei ragazzini, e ha detto: guardate, il futuro del documentario è il 3D. Una cosa un po' strana, perché il 3D un po' evitare di produzione, insomma, anche fino al 30%. Queste sono anche le nuove tendenze. Però Camillo, ecco, ha ancora senso o avrà mai senso parlare di cinema europeo? Esiste un cinema europeo o è un'etichetta inutile, esagerata, così, no, comodo? Non è inutile, perché comunque siamo un continente, in qualche modo siamo tutti collegati, però ovviamente il cinema europeo non è il cinema americano o non lo so, il cinema giapponese, è fatto, come sappiamo benissimo, di cinematografia anche piuttosto diverse, no? Cioè quella francese, quella inglese sono piuttosto diverse. Diciamo che ultimamente il filo lega molti paesi sono proprio l'Italia alla cultura, anche se per esempio poi in Francia si rilancia e quest'anno si finanzieranno, quindi si produrranno più film addirittura che dell'anno scorso. E invece un esempio negativo è purtroppo l'Ungheria, la cui industria cinematografica è quest'anno è letteralmente in ginocchio. Il pilastro pubblico del finanziamento alla produzione è stato azzerato, gli sono stati assegnati 3 milioni e 600 mila euro. Gli americani con 3 milioni e mezzo ci fanno uno spot, in Ungheria si fanno al massimo due film, e questa è una tragedia, tant'è vero che a Berlino sarà presentato un manifesto di una lettera aperta di un gruppo di cineasti ungheresi, salvate il cinema ungherese, fa parte della cultura europea, e già noi stiamo raccogliendo delle firme, le abbiamo pubblicate, arrivano firme di solidarietà da Teo Angelopoulos in Grecia, ma anche da Gus Van Sant degli Stati Uniti, da Alfonso Cuarón in Messico, insomma c'è grande solidarietà. No, ovviamente non si può parlare di cinema europeo in generale, anche se devo dire alcuni paesi hanno una capacità maggiore di altri di fare coproduzione. Questo è un particolare molto interessante, perché la coproduzione significa magari girare un film in inglese e avere una maggiore circolazione in tutto il mondo. Proprio ieri è passato, l'altro ieri a Berlino è passato The Devil's Double del regista neozelandese Lee Tamaori, che ha fatto il James Bond di La morte può attendere. Beh, questa pellicola è interamente belga, è girata in inglese con un attore britannico, ed è la storia della controfigura del figlio di Saddam Hussein, Uday, ce lo ricordiamo, sì. Un personaggio cattivissimo, abbiamo imparato dalle cronache, è la storia vera. Quest'uomo è stato costretto a fare la controfigura del sosia per ragioni di sicurezza, perché assomiglia a Uday, e ha scritto un libro di cui è tratto questo film molto interessante, che sicuramente avrà una distribuzione internazionale. Quindi la capacità dei belgi di entrare in coproduzioni più importanti, anche i tedeschi si cercano altre forme di sopravvivenza, diciamo. La creatività, esatto, per fortuna non è morta, e la crisi sì, è un grosso ostacolo, ma può essere superata, o comunque può essere un attimo arginata con nuove forme di collaborazione. Camillo, grazie davvero per averci dato queste suggestioni, questa veloce fotografia sullo stato del cinema europeo. Ricordiamo il portale cineeuropa.org. Ciao, grazie, buon sabato. Anche a voi. Ciao. WikiLeaks grundare Julian Assange. The charge has been dubbed sex by surprise. Assange allegedly refused to wear a condom, and it's a crime unique to Sweden. Here in the UK, people say it would be funny if it wasn't so serious. Facendoci aiutare da questo GR estrapolato in rete, cambiamo completamente argomento, parliamo di Assange, e lo facciamo andando in Svezia, non tanto per parlare del caso WikiLeaks, ma per parlare di quello che è accaduto dopo tutta la discussione legata alla denuncia per stupro, che appunto è salita agli altari della cronaca, se ne sta parlando tanto, soprattutto perché la discussione che ne è nata in questi giorni, soprattutto dalla rete in Svezia, quando le svedesi dicono no, era il titolo, si parla di consensualità dei rapporti sessuali, una discussione che dalla rete comunque è anche entrata nel quotidiano per capire quello che sta accadendo. Abbiamo la nostra voce dalla Svezia, lei è un'italiana con il pallino e anche studiato scienza della comunicazione e politica. Diamole il benvenuto a Viola Afrifa. Ciao Viola. Ciao Federico, buongiorno a tutti. Come stai? Bene. Mi fa piacere. Allora Viola, abbiamo letto di quello che sta accadendo in Svezia, insomma tante discussioni legate al dopo Assange, questo nuovo concetto anche di sesso a sorpresa, ci puoi sintetizzare cosa sta accadendo? Sì, intanto ho sentito l'estratto che avete mandato in onda ora prima del mio intervento. La cosa importante da dire è che c'è stato un incredibile malinteso riguardo a questa definizione di surprise sex, perché in realtà surprise sex è una parola slang svedese per indicare lo stupro, quindi non è un reato unico in Svezia come è stato detto in tutti i giornali, tra i giornali del mondo, quindi già questo mi sembra una cosa abbastanza importante da sottolineare. Quindi in realtà le accuse rivolte a Sanchez sono ben precise e sono stupro e molestia sessuale da parte di due donne svedesi con cui lui ha avuto dei rapporti sessuali qui in Svezia alla fine della scorsa estate. E appunto l'opinione di queste, la posizione di queste donne è che questi rapporti sessuali che si sono consumati non fossero consensuali. Certo, questo è quello che sta anche appunto di cui stanno parlando nelle aule giudiziarie, però sì. Si è aperta questa discussione attorno a questo fatto, quindi un momento anche di confronto sociale, diciamo. Assolutamente, assistiamo come migliaia di altre volte alla potenza indiscussa dei social network, in particolare su Twitter che si sta sviluppando il dibattito. C'è un profilo in particolare, è stato creato apposta, si chiama Prata on Death su appunto twitter.com. Prata on Death significa parla di questo, e praticamente il nodo centrale, la domanda, una delle tante domande che le donne e gli uomini che partecipano al dibattito si pongono è: vi riconoscete nel fatto che un no, ovviamente si parla di rapporti sessuali, un no dato da una donna a un uomo è vissuto spesso e volentieri come più un inconveniente superabile piuttosto che un limite invalicabile? Questa è la domanda che le donne si pongono. Avete mai avuto esperienza di, non necessariamente la violenza come siamo abituati a immaginare, diciamo in generale, no? Lo stupro come certo, un atto violento, assolutamente, da un certo punto di vista anche piuttosto pulp, possiamo immaginarsi il vicolo buio, il coltello, no? Le donne invece qui stanno iniziando a dire non è necessario arrivare a quello. Nel momento in cui una donna si ritrovi ad avere un rapporto sessuale anche con una persona che conosce o con una persona con cui comunque ha avuto rapporti sessuali fino a 5 minuti prima, è possibile ed è plausibile pensare che 5 minuti dopo quella stessa donna viva lo stesso rapporto in maniera come se questo fosse un abuso, perché appunto aveva espresso chiaramente un no. L'altra Europa. Dalla Svezia con noi Viola Frifa, per avere un po' la voce di questa nazione nordica. Ci si sta confrontando partendo dalla rete ma anche nella quotidianità su concetti legati alla consensualità dei rapporti sessuali, un'apertura diversa, insomma anche tanti fraintendimenti, però Viola, la discussione continua, tra l'altro ripetiamo, in rete si trova tantissimo. Grazie a te per averci dato questo contributo. Ci hai girato anche un articolo bellissimo, la Svezia è alla ricerca di rifiuti, non ne avete abbastanza. Esatto. Com'è questa cosa? Dunque sì, è uscita questa notizia qualche giorno fa che appunto la Svezia si trova costretta a importare rifiuti da poter bruciare nelle proprie centrali di teleriscaldamento. Fantastico. Perché probabilmente, ora io non ho fatto ricerche approfondite, però evidentemente vedete, riciclano troppo, consumano troppo bene, il che significa che comunque c'è un occhio di riguardo agli imballaggi, un occhio di riguardo al non al riutilizzo, insomma, consumare in modo eccessivo, eccetera. Per cui ci ritroviamo a dover pagare i rifiuti che arrivano dall'estero per poter appunto creare il riscaldamento per le case. Ok, avremo materiale per voi. E Viola Frifa da Stoccolma, giornalista, esperta di comunicazione politica, so che stai cercando lavoro, so che hai mandato un curriculum in Italia e ti hanno detto? Non tornare, mi hanno detto no, non ci prendiamo la responsabilità. Ok, vabbè. Ho detto okay. Ok, grazie per questa cosa. Insomma, è stata una cosa curiosa, ma spero che non si ripeta mai più. Penso anch'io, altamente significativa. Viola, grazie, ci ritroveremo sicuramente qui all'Alta Europa. Ciao, ciao, ciao. Ciao. E cambiamo completamente argomento, abbiamo pochi minuti, ma sono contentissimo di avere qua in studio una voce che già abbiamo conosciuto qualche puntata fa. Lei è una fotografa da anni, appunto è una professionista del settore, però da anni porta avanti questa sua visione della fotografia, che passa sì dal punto di vista artistico, ma anche dal punto di vista terapeutico, diciamo, ad ampio raggio possiamo usare questa parola. Lei si chiama Cristina Nunez e da quanti anni, Cristina, fai autoscatti? 23. Da 23 anni fa solo autoscatti, e questi autoscatti li porta in giro per l'Europa. E tutto questo è da essere diventato anche un libro che stai presentando, Someone to Love. Ciao Cristina, benvenuta. Ciao Federico. Allora, tu sei spagnola, però hai vissuto a Milano. 24 anni, sono mezzo milanese. Ecco, però tre giorni fa, quando abbiamo concordato l'intervista, eri in Finlandia in un ospedale. Cosa stai facendo? No, ero al congresso di fototerapia presentando il mio lavoro, ma in Finlandia lavoro spesso all'ospedale di Tampere, al Dipartimento di Psichiatria Infantile, dove faccio workshop sia per le psichiatre, che sono quasi tutte donne, che gli infermieri, e abbiamo iniziato anche con i bimbi, e abbiamo in progetto uno studio fotografico permanente per usare la fototerapia in questo ospedale. Mm-hmm. Quindi tu nasci fotografa, poi ti sei la macchina fotografica l'hai sempre tenuta rivolta verso di te, e soprattutto hai insegnato alle persone a fotografarsi da sole. Questo è l'autoscatto. Esatto. E cosa raccontano queste foto, e cosa raccontano, che Europa raccontano dalle tante esperienze che hai fatto tu? Questo è difficile dire, perché in realtà, siccome nell'autoritratto esprimiamo emozioni, anzi esprimiamo tutto quello che normalmente nella vita non possiamo esprimere, è come un punching ball, no? Mm-hmm. Tirare fuori tutto e così liberarsene, e così accettare tutto quello che abbiamo dentro, e così esplorare nuove potenzialità che non abbiamo neanche mai immaginato. Cioè, noi in questi autoritratti non ci riconosciamo, e questo è bene, perché esploriamo proprio tutta l'enorme potenzialità che ogni essere umano può avere. Tu oggi stai facendo un laboratorio qui a Milano, arrivi da poco, l'hai fatto in Finlandia, in Spagna, dove appunto anche lì tieni workshop, e tutto questo lo racconti in questo libro, che è una biografia, ma non solo, giusto? Sì, Someone to Love, il titolo è molto importante, perché è cercare qualcuno da amare, che è uno stesso innanzitutto. Someone to Love è un doppio libro. Il primo libro è la mia autobiografia, in cui racconto la mia tossicodipendenza da molto giovane, e racconto tutta la mia storia, è molto emozionale, con tutte le mie vicende abbastanza intense, con foto di famiglia, autoritratti, ritratti e testi. E il secondo libro è il manuale completo di autoritratto, con tutta la teoria, la mia ricerca teorica del perché l'autoritratto è così uno strumento di conoscenza profonda e così terapeutico, e tutti gli esercizi, perché il metodo ha più di oltre 16 esercizi di autoritratto, con moltissimi esempi dei miei studenti. Cristina, diamo un sito per tutte le informazioni? Sì, www.self-portrait.eu. Nella parte Live Workshops ci sono tutte le presentazioni del libro e tutti i workshop che faccio. Ottimo, ti lasciamo, perché sappiamo che il workshop è qui, è in atto, e ti abbiamo veramente rubato per qualche minuto. Grazie davvero. Grazie a te, Federico. Ciao, buon lavoro. Ciao, ciao, buon lavoro a te. E salutando Cristina, salutiamo anche voi. Un grazie a Margherita Ina, che ha scritto come la puntata, con la collaborazione di Claudia Carusi, in assistenza Giorgio De Luca, Peter Bescapè, come sempre, alla parte tecnica, facebook.com/l'altra Europa, le nostre pagine ufficiali. Come sempre, noi ci ritroviamo sabato prossimo. Ancora ciao da Federico Taddia.